Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla e questa settimana entriamo in un fantastico mondo. Infatti volevo farvi esplorare il Brasile. Il Brasile, ma non è una scelta a caso, perché come vedrete questa settimana non sarò affiancato e alternato, oltre che allineato, con il mio amico Mendoza, perché il nostro Mendo ci ha lasciato, è andato in Brasile. E allora io volevo dedicargli questa settimana a lui e a questo paese meraviglioso che è il Brasile, anche se non ci sono mai stato. Ma ci faremo dire da Mendo com'è. Comunque, il Brasile ha un sacco di virtù, lo sappiamo tutti. E me l'ha confermato anche Mendo la prima sera. Le donne, innanzitutto. Le donne sono fantastiche in Brasile, sono belle e formose, si vestono poco e sono sempre molto allegre, hanno voglia di ballare. E il Brasile è bello perché c'è tutta la vita, è molto movimentata, il calcio, la spiaggia, è tutto molto molto bello. E infatti quando si va in Brasile, poi quando si va via dal Brasile, i brasiliani si sa, sentono molto la saudade, quello sentimento che esploreremo anche in questa settimana di quasi una tristezza, di malinconia, di rimembranza di un paese che ti manca come il Brasile. Io, come per iniziare questo viaggio, partirei come al solito con l'abbinamento con la musica, un'altra delle arti dove i brasiliani insieme allo sport sono molto bravi, e partirei da uno dei più celebri, se non il più celebre, cantautore brasiliano, che è Caetano Veloso. Non so quanti di voi lo conoscono, ma partirei con lui, con una sua canzone, per poi andarvi a leggere un testo di sempre una sua canzone, ma che più che una canzone è la storia del mondo. Ora è una canzone in inglese questa, quindi scusatemi, non è in brasiliano, però secondo me è una di quelle che mi ha fatto innamorare di Caetano Veloso e me l'ha fatto conoscere in un viaggio che ho fatto in macchina on the road con i miei amici Ram e Teus, che saluto. È stato molto divertente quel viaggio perché abbiamo messo la benzina al posto del diesel, vabbè, dico solo questo. Vi lascio a Caetano Veloso, It's a Long Long Way. This morning, singing an old Beatles song. We're not that strong, my Lord. You know we ain't that strong. I hear my voice among the break of day. Hey, brothers, say, brothers, it's a long, long, long, long, long, long, long way. It's a long way. It's a long. It's a long, long, long. It's a long, long, long, long, long, long, long, long. It's a long. It's a long, long, long, long way. It's a long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long. It's a long way. It's a long. Os olhos da cobra verde. Hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way. It's a long. It's a long way. It's a long, long, long. It's a long way, it's a long way, it's a long, it's a long, long, long, it's a long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, it's a long, it's a long way, it's a long. Ah, renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Arrenego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road, it's a long, it's a long road, it's a long and winding road, it's a long and winding road, it's a long and winding road, it's a long and winding road, it's a long and winding, long and winding, long and winding, long and winding road, it's a long road, it's a long, it's a long road, it's a long, long, long. Brinca na beira do mar, a água passa, a areia fica no lugar. It's a hard, it's a hard, it's a hard, hard way. Ah, e se não tivesse o amor? E se não tivesse essa dor? Eccoci qua che ritorniamo e ritorniamo a parlare di Brasile. Sono partito da Caetano Veloso, uno dei più bravi cantautori brasiliani a mio parere, e ora passerei a uno dei più grandi poeti brasiliani del Novecento per concludere questa puntata di Le Buone Note di Allineamenti con una bella poesia come facciamo sempre. E ho deciso di portarvi Carlos Drummond de Andrade, non so se lo conoscete, ma ho trovato una poesia che è stata tradotta da Antonio Tabucchi, uno degli scrittori più appassionati della poesia brasiliana, portoghese, come potete anche ritrovare i paesaggi in Sostene Pereira, uno dei miei libri che secondo un grande maestro, leggetelo, è obbligatorio. E la poesia si chiama José, siamo pronti. E ora, José, la festa è finita, la luce si è spenta, la gente è partita, la notte è ghiacciata. E ora, José, a che ora? A che ora è di te? Di te che non hai nome, che prendi in giro gli altri, di te che fai versi, che ami, protesti. E ora, Giuseppe, sei senza una donna, sei senza un discorso, senza tenerezza. Ora non puoi più bere, non puoi più fumare, non puoi più neppure sputare. La notte è ghiacciata, non è arrivato il giorno. Non puoi più bere, non puoi più fumare. Non è arrivato il giorno, non è arrivato il tram, non è arrivato il riso, nemmeno l'utopia. È tutto, e tutto è finito, e tutto è sfuggito, e tutto si è ammuffito. E ora, Giuseppe? E ora, Giuseppe? La tua dolce parola, la tua gola, la dieta, il tuo istante di febbre, la tua biblioteca, il tuo giacimento d'oro, il tuo vestito di vetro, la tua incoerenza, il tuo odio. E ora? La chiave nella mano, tenti di aprire la porta, non esiste una porta, vuoi morire nel mare, ma il mare è seccato, vuoi ritornare a Minas? Minas non c'è più. José, e ora? Magari tu gridassi, magari tu piangessi, magari tu suonassi il valzer viennese. Magari tu dormissi, magari ti stancassi, magari tu morissi, ma tu non muori. Tu sei duro, José. Sono nell'oscurità, come animale selvatico, senza teogonia, senza parete nuda alla quale appoggiarti, senza cavallo nero, la gola e la dieta. Tu avanzi, José. Verso dove, José? E con questa ultima lettura concludiamo la prima puntata di questa settimana sul Brasile. Vi aspetto per le prossime serate e vi auguro una grande buonanotte qui a Ciao Radio Com e a buonanotte di allineamenti. Domani ci sarà Marco, buona serata a tutti e ciao, qui era Gas. Deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.